di giada, la pietra del fianco, la strada mostra il suo volto. Salita che con te è canto, ginestre come grappoli d'argento, le rose brillano nel vento e illuminano il tuo mondo. Ti aspetta una notte di fuoco, ma tu sai dare luce anche alle piante di fico. Un giorno troverai nel cammino chi saprà leggere oltre il tuo destino, e saranno le sue mani a farti innamorare. Sotto gli alberi troverai la tua parte migliore. Le rose brillano nel vento e illuminano il tuo mondo. Ti aspetta una notte di fuoco, ma tu sai dare luce anche alle piante di fico, e dimenticherai il mio nome, il mio volto, la mia voce, la mia passione. Sarai sintesi, figlia dei ricordi di quando mi chiamavi per stendere i panni. Le rose brillano nel vento e illuminano il tuo mondo. Ti aspetta una notte di fuoco, ma tu sai dare luce anche alle piante di fico, e lontano, lontano, vicino al tuo cuore, troverai una spilla, tutto il mio dolore. Tu non dargli peso, tu non farci caso, niente è andato perso, niente è stato buttato. Le rose brillano nel vento e illuminano il tuo mondo. Ti aspetta una notte di fuoco, ma tu sai dare luce anche alle piante di fico. Le rose brillano nel vento e illuminano il tuo mondo. Ti aspetta una notte di fuoco, ma tu sai dare luce anche alle piante difficult.